Incontri di Gianfranco Fabi. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout. E con la Via en Rose di Edith Piaf iniziamo il primo incontro di quest'anno. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica, quanti ci ascoltano, buongiorno e buon pomeriggio a Vito Volpe. Grazie, grazie. Vito Volpe, psicologo del lavoro, presidente e fondatore di ISBO, i suoi auguri di buon anno. È meraviglioso perché siete partiti con la Via en Rose. Ma l'ha scelto lei. Che quindi è meravigliosa. Se l'ho scelta io, se l'ha scelta qualcuno che mi ha consigliato, ottima scelta, è anche un modo di augurare a tutti gli ascoltatori un felice 2013. Ne abbiamo un gran bisogno. Ecco, però è una maniera anche di guardare un po' con ottimismo. È chiaro, certo, certo, certo. Ma con un ottimismo fondato su qualcosa di concreto. Fondato. Secondo me l'ottimismo è la felicità, mettiamola così. Non è stare in uno stato di grazia, che questo è un po' improbabile, ma è cercare la felicità. Chi cerca la felicità è già felice. Ecco, tra l'altro, Essere felici a scuola, magari ne parleremo dopo, è un libro che lei ha curato insieme a Maria Giovanna Garuti, Gino Rigoldi, è 181 insegnanti contro il bullismo. Essere felici a scuola, essere felici in modo costruttivo, senza appunto il bullismo, senza violenze, ma con una voglia di costruire. Ecco, questa voglia di costruire forse è alla base anche dell'ottimismo. È alla base del sentirsi cittadini. Sentirsi cittadini vuol dire sentirsi nella condizione di poter cercare il proprio benessere. Non vuol dire per forza realizzarlo o realizzarlo tutti nello stesso modo. A mio modo di vedere, ognuno ha peraltro un'idea diversa di felicità e di benessere, per fortuna. Certo. No? Ma vuol dire cercarlo, la possibilità di essere protagonisti della propria esistenza. Quello che anche con questo lavoro sul bullismo abbiamo cercato di fare, di rimettere in movimento delle energie che erano sopite e che, oppure che erano deviate, perché il bullo è poi uno che devia un'energia positiva, certo. Perché l'aggressività, anche l'aggressività è positiva, se ben convogliata, invece la ritorce un po' contro se stesso e contro gli altri. E questo perché ha perso fiducia. Sì, qui creare modo. La fiducia, creare in fondo le condizioni perché la crescita costruttiva possa essere qualcosa di condiviso anche con gli altri, in fondo capire che anche la felicità è tanto maggiore quanto più è condivisa e non è mai egoistica. E d'altro canto oggi il vero, quello che vendiamo e che compriamo è la fiducia. I mercati comprano fiducia e vendono fiducia, no? Le leadership politiche, adesso siamo ormai nel pieno di una... Certo. Devono promettere, no? Ecco, il problema è, a mio modo di vedere, innestare dei processi per cui non c'è chi promette e chi aspetta la promessa, aspettando Godot, ma c'è un concorso e un impegno, mettere in moto le energie. Io sono convintissimo che il problema fondamentale del paese non è lo spread finanziario, che ci tormenterà un po' sempre, ma lo spread della speranza, della progettualità. Che poi sono conseguenti uno con l'altro, ecco, quindi sì. Alla base c'è però la volontà però di costruire. Io che sono un po' più vecchio di lei, nella Milano, non la Milano da bere che è un'altra cosa, ma nella Milano del dopoguerra, e che noi eravamo ragazzini, ma immaginavamo tutti di essere dei fenomeni, insomma, perché c'era una grande speranza. C'è una battuta, non ci sono più i futuri di una volta. Sì. Questa è una battuta tremenda. Questo lavoro fatto da me, da Gino, essere e da Giovanna, scuola, essere felici a scuola, è un tentativo di rimettere categorie difficili, no? Nel circuito della speranza e della progettualità. La ricerca di felicità, torno a dire, è già un po' essere felici. Invece si è infelici quando ci vediamo nello scacco. Possiamo solo aspettare. Certo. Ecco, allora torniamo a 40 anni fa, quando lei ha fondato, ha creato l'ISMO. Spieghiamo un attimo anche agli ascoltatori che cos'è ISMO. Ma posso l'ultimo dibattito interno ieri, noi abbiamo come filosofia generale l'essere una sorta di redazione di un buon giornale. 40 anni che siamo in piazza Sant'Ambrogio, davanti alla Basilica, 40 anni in cui è successo di tutto, no? 40 anni che cosa non è successo? Di tutto proprio. E noi nasciamo come appassionati nelle relazioni umane, appassionati ai temi. Io sono dottore in economia e come me altri, in ISMO ci lavorano oggi più di 50 persone, fra ricercatori, professionisti, impegnati, una decina di persone poi sono nelle strutture di amministrative eccetera, quindi siamo una piccola comunità professionale che non è poi così piccola. Ma cos'è, più un ufficio studi, più una società di consulenza, più una... Secondo una filosofia che è un po' anche la filosofia della mia vita, non sempre le cose sono oppositive, anzi noi dovremmo finirla di contrapporre le cose e dire che si può essere una cosa e l'altra. Chi ci ha detto che o la botte piena o la moglie ubriaca ci ingannava, o ci può anche stare che qualche volta ci sia la moglie un po' ubriaca e la botte non completamente vuota, certo. Allora nasce 40 anni, 40 anni fa, sulla espressione, proprio espressione, quindi qualcosa che butti fuori, di una volontà di gente che, pur avendo, eravamo nel 69, 70, gli anni in cui abbiamo incubato queste cose qui, è nata nel 72, ma già io lavoravo prima con Enzo Spaltro, che è stato mio grande maestro, e che per un dottore in economia era anche una vita relativamente insolita, che mi occupassi di psicologia. Poi sono diventato professore di psicologia, in realtà, perché la passione proprio, ecco, lo spazio della speranza è lo spazio delle passioni. Naturalmente non delle passioni velleitarie, individuali, ma delle passioni sociali, quelle che puoi mettere insieme agli altri. Fare un buon prodotto per un mercato, fare bene l'insegnante è una passione, ma non è una passione edonistica, narcisistica, è una passione nella quale ci stanno anche altri. E quindi portare anche questa passione all'interno del lavoro, il lavoro che poteva essere concepito in tempi appunto di fordismo, di catene di montaggio, come la persona che doveva svolgere un certo compito. Ecco. Per darle un'idea, noi nasciamo come ISMO qualche anno prima del 72, l'anno in cui ci siamo fondati, come costituiti in qualche modo, e nasciamo in un'azienda che è la Pirelli. Pirelli era un'azienda in condizioni di grande precarietà, non sapeva né dove guadagnava né dove perdeva, aveva bisogno di... In Pirelli in quegli anni, no, nascevano le tensioni che sono state poi le tensioni più grandi che il paese ha avuto, gli anni di piombo. Incubavano in quegli anni lì. Pirelli non leggeva più bene. Il management della Pirelli, abituato a essere un po' formale, anche benestante, anche signore di un capitalismo ambrosiano, e la Pirelli era la più grande multinazionale italiana, grosso modo, però non capivano più, non leggevano più quel che stava succedendo. Quindi sono andati a cercare in giro qualcuno che li aiutasse. Io, che facevo l'assistente in un'università cattolica, gli ho interessati, sono venuti a prendermi. La prima volta che ho fatto un preventivo l'ho fatto su un pezzo di carta e loro mi hanno detto: ma forse ha sbagliato, lo dico in senso buono, ma come aneddoto manca uno zero, insomma, perché io ho fatto i conti di cosa prende un impiegato di lì, insomma. Però ho fatto un lavoro che in una piccolissima azienda di Bergamo, la Lastex, quella che faceva tutti gli altri, fu un enorme successo, semplicemente perché, come ricordava il Tommaio all'inizio del secolo scorso, perché qualcuno è andato a dire: vi guardo, vi osservo, sto stimando il vostro lavoro. E tant'è che abbiamo avuto un risultato. A quel punto Pirelli mi disse: sì, però noi qui abbiamo la divisione pneumatici che è in crisi, cioè la divisione più grossa che c'è nel mondo. Abbiamo lavorato su quella anni, anni e anni. Io devo dire, grazie alla stima ricevuto, ho avviato un'attività professionale poi d'impresa, certo. Perché qualcuno ha scommesso, si dice dei giovani, ma io ho 26-27 anni quando ha fondato ISMO, certo. Adesso 40 in più, ma non contano, sì. Ecco, ma in questa prospettiva l'azienda resta il cuore dei suoi interessi, l'impresa, cercare di avvicinare l'impresa e cercare di far cambiare queste imprese adattandole a una realtà che è la realtà del cambiamento. Assolutamente sì. E devo dire che quegli anni erano anni eroici, no? Ora ci sono difficoltà più fredde, se vogliamo, meno calde, meno appassionanti, però ci sono difficoltà molto grosse, e il nostro lavoro è di rimettere sempre il sistema manageriale, il sistema intellettuale in condizioni di poter agire. Quindi lavoriamo molto sui temi della partecipazione. C'è un'azienda che vuole chiudere, stringere e regolare tutto con il comando e l'obbedienza, non chiede a noi di lavorare. Chi vuole mettere in moto energie e anche dove le energie sembrano difficili da mettere in moto, noi siamo capaci di farlo, però nel rispetto delle diverse componenti, per cui abbiamo apprezzamenti sul lato confindustriale, molti apprezzamenti, ma abbiamo anche molti apprezzamenti sul fronte sindacale, dove si vuole dialogare. Ancora con la voce di Edith Piaf riprendiamo il nostro incontro di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio e buon anno a quanti ci ascoltano. Vito Volpe, psicologo del lavoro, fondatore e presidente di ISMO. Abbiamo concluso la prima parte appunto parlando dell'impegno all'interno delle imprese, sulla possibilità di dare alle imprese una nuova capacità competitiva basata sulle risorse umane, sulla capacità anche di affrontare all'interno i problemi, di dialogare, di partecipare. Ecco, partecipare è molto spesso è qualcosa di osteggiato dai sindacati. C'è stata per lungo tempo la cultura del conflitto, come il padrone da una parte e i lavoratori dall'altra. È possibile entrare in una cultura della partecipazione? È indispensabile. Il successo della Germania, che è un successo di strutture molto formali, molto ben fatte, molto solido, è anche legato al fatto che hanno un sistema di partecipazione, di governo delle imprese. Da noi questo problema ha un valore leggermente diverso, perché da noi si è sviluppato enormemente la piccola e media impresa. Nella piccola e media impresa la partecipazione è nelle cose. È naturale. È infatti naturale, certo. No? L'impresa della famiglia. Noi dobbiamo però imparare a fare management partecipativo, management by learning, cioè basato sul fatto che diventiamo tutti un po' meglio, non sul fatto. Certo, anche correggendo alcune cose. E non è scandaloso dire che il differenziale retributivo che c'è oggi nelle aziende industriali italiane è simile a quello che poteva essere il differenziale del Medioevo. Cito solo una cosa perché è interessante, l'ho imparata pochi giorni fa, perché nel dialogo noi abbiamo molta attività culturale in ISMO, a parte il fatto che alcuni di noi lavorano come me, hanno lavorato adesso all'università, quindi si sono preoccupati di tutta la trafila, di tutto il processo. Ai tempi di Eisenhower i grandi redditi erano colpiti in una regione del 90%. Eisenhower era un uomo di destra, un generale, certamente un grande personaggio della storia, anche dell'Europa. Oggi in America i redditi vengono tassati, i redditi alti, non più del 40-50%. E da noi... Allora, ci dobbiamo mettere in mente che l'impegno nel lavoro, l'impegno nell'impresa, non è fatto per Cicero prodomo propria, scusa l'espressione un po' paesana, è fatto per rendere un sistema più solido, che se io nel sistema debole sono forte, non sono forte, mi illudo. Ecco, questo che dobbiamo capire, passare da un ragionamento individuale, come se fossimo soli al mondo, a un ragionamento duale, la famiglia, qualcosina, a un ragionamento plurale. Che deve comprendere anche la politica, perché anche la politica, assolutamente sì. Cioè il problema certamente è anche quello della tassazione, che dovrebbe essere equa, ma anche di come vengono usati poi i soldi dei contribuenti. Certo. E quindi anche sul fronte della politica un vigoroso taglio degli sprechi. Certo, è vero quello che lei diceva poc'anzi. Il sindacato, almeno una parte di esso, in Italia ha sempre visto con molta diffidenza i sistemi di partecipazione. Noi abbiamo portato avanti però esperienze anche nel campo specifico di alcuni campi, l'antinfortunistica, per esempio la formazione, ma le imprese oggi sono finanziate con i fondi professionali e con i fondi della comunità europea. Ma lo sviluppo, oggi il problema della formazione è trovare i partecipanti, è trovare le aziende disponibili a mettersi intorno al tavolo e studiare. Ma come si può uscire da una crisi se non ci si mette a pensare al futuro, al nuovo? Ecco, molto spesso si parla della formazione come di qualcosa che diciamo una foglia di fico, nel senso che le aziende lo fanno, hanno dei fondi europei, hanno dei fondi anche italiani, hanno anche dei fondi propri delle imprese, sì. Ma talvolta sembra che la formazione sia un modo di occupare un po' certe persone, di finanziare certe attività, ma ottenga pochi risultati. Questo me lo può smentire? Vi do un esempio, sempre perché alla mia età e con l'esperienza di 40 anni si pesca dalla propria esperienza molto apprendimento. negli anni, nel 72, 71-72, quando iniziò l'ISMO e quando fondammo l'ISMO, c'erano tutti i manager numeri uno di aziende della dimensione della Pirelli, poi della Fiat e altro, perché, no? Poi Teletra, poi tante, l'Alfa Romeo, impiegavano nella formazione un tempo che erano 10-12 settimane. I grossi manager, oggi se dice a un grande manager di occuparsi mezza giornata o di lasciare venire la sua segretaria, fa la faccia triste, come dire, ma come faccio, ma com'è possibile, pur essendo allora pagata dalle imprese e pagata profumatamente, e intorno a queste esperienze un sacco di intelligenza, perché cosa avevamo da dire noi psicologi del lavoro, filosofi, no, sociologi, è che io ho lavorato, il comitato didattico della Pirelli era formato da me, dal professor De Masi e da Gambigliani Zoccoli, che poi fondò il Marentino, buonanima, ma che era allora, la scuola di formazione della Fiat. Bravo. Cioè, voglio dire, c'era intorno in Olivetti Butera e quanti altri, e dappertutto è stato così. È stato un momento in cui l'intelligenza, attraverso la formazione del management, cioè costruire una cultura industriale italiana. Bisogna tornare a quella. Bisogna tornare a quella, assolutamente sì. E anche creare gli spazi in cui non è che i manager stanno con i manager, gli intellettuali con gli intellettuali. Questa è una grande sciocchezza. È mescolare le cose. Io vedo positivamente che un professore universitario metta su un'impresa, se riesce a fare tutte e due, ben venga. Certo. Perché vuol dire passare dalle teorie ai fatti e cimentarsi in qualche... Le grandi università come il Politecnico, eccetera, sono fatti da tanti professori, come è stata a Boston l'MIT, come è stata... grandi centrali di impresa. Ecco, mi hanno raccontato che ai 40 anni, la festa che avete fatto il mese scorso, sui 40 anni, per i 40 anni di ISMO, c'è stato un esponente della Ferrero che ha detto che nella Nutella c'è molto ISMO. Cosa voleva dire? Ah, bello, bella la sua... il suo ricordo, vero, vero. Il Ferrero è stata un'azienda nella quale abbiamo lavorato per tanti e tanti anni. Partiva con una struttura che, per capire chi comandava di più, a parte la grande famiglia, Ferrero, certo. Dovevi andare a vedere l'agenda telefonica, capivi che uno era più capo, era un po' più responsabile di altri. Quindi un'azienda nata dalla passione, dallo spirito, dal fatto di aver trovato delle sintesi fra campagna e industria, delle cose realmente innovative, fatte, che le può fare il manager imprenditore, le può fare l'imprenditore, non le può fare il manager che deve chiedere a volte nelle aziende burocratizzate, che sono anche le multinazionali, 10.000 permessi. E non si sente autorizzato a innovare, ecco, noi abbiamo bisogno di sentirsi autorizzato a inventare. In questo la nostra esperienza imprenditiva di tante, tante migliaia di imprese deve essere rilanciata. Certo, siamo alle seconde e alle terze generazioni. Certo. Quindi ecco, abituare le persone ad essere imprenditori di se stesso, a qualunque livello siano all'interno delle aziende, questo non è forse facile. D'altro canto, noi i lavori poveri sono un lusso che non ci possiamo permettere. Beh, è la verità. Perché costano troppo. Quindi tutto ciò che non è trasferibile va altrove se certo. Fatto qui. Ma noi qui dobbiamo invece avere un lavoro che non è trasferibile altrove, perché c'è l'utilizzo di un'intelligenza, permettetemi, anche un po' di questa storia italiana, che non è fatta di grandi organizzazioni solo, alcune, perché ci sono grandi imprese, no, citavo prima la Pirelli, ma posso citare Alfa Romeo, posso citare certo. Queste grandi aziende, la Fiat, che hanno comunque dato l'anima e che oggi sono amministrate un po' burocraticamente. Ecco, rilanciare e anche trovare una modalità per saldare l'esperienza imprenditoriale nel management. Cioè, io ho lanciato, quando abbiamo fatto la festa dell'ISMO per il quarantennale, che l'ISMO è un'istituzione. Cosa vuol dire? Che deve andare oltre il fondatore, che sarei io e pochi altri, che deve andare oltre la mia stessa esistenza. Quando abbiamo fondato l'ISMO, abbiamo creato uno statuto con 10, come dire, affermazioni che sono state per noi il punto, la stella polare, il punto di riferimento. Un decalogo. Esatto, un decalogo. Cioè, cosa vuol dire? Ci siamo già impostati nell'ottica di andare oltre e non di un'agenzia d'affari che doveva sfruttare un'occasione, vendere qualcosa e poi chiudere i battenti. No, l'ISMO va avanti. Quindi è un'operazione culturale. Questo molto. Lo dimostra anche appunto questa iniziativa. Abbiamo parlato già della prima parte, Essere felici a scuola, un libro realizzato con la collaborazione anche di Sodalitas, che è il gruppo di persone che lavorano collegate alla Solombarda per sollecitare la responsabilità sociale delle imprese, quindi la presenza anche a livello appunto di crescita sociale nel suo complesso. Essere felici a scuola vuol dire in fondo insegnare ai piccoli, ai bambini, ai ragazzi delle scuole anche una logica manageriale, possiamo chiamarla così. Sì, imprenditoriale meglio ancora, cioè, perché imprenditoriale vuol dire che innova, che si sente autorizzata alla trasformazione. I manager a volte non si sentono autorizzati, questa è una delle questioni. Abbiamo ottime persone, a volte troppo in attesa di qualcosa che succeda e che non dipende da loro. No, anche questa crisi qui ci si esce se la sentiamo come un problema che ci riguarda, non so come se è un problema che riguarda soltanto i futuri leader o così. Cioè che ci riguarda appunto tenendo conto anche che è importante il contesto in cui ci si muove, che non sono solo i singoli, che però si può passare anche dal bene individuale al bene collettivo, perché il bene collettivo è anche un bene individuale. Forse è questo passaggio certo. che è difficile, cioè siamo fermi ad Adam Smith che dice che ognuno fa i propri interessi e quindi automaticamente, però facendo anche un interesse pubblico, quello che forse un po' enfaticamente si può chiamare bene comune, si realizzano poi gli interessi di ciascuno. Assolutamente, ma difatti Adam Smith è stato anche un po' turlupinato, è stato tirato un po' troppo sulle posizioni di un individualismo. In realtà è proprio questo discorso sui beni comuni. Se non tengo pulita la strada davanti alla mia casa, la città è sporca, ma questo dipende dalla città o dipende anche pro quota da me? Il bene comune è quella cosa che uno dice, vabbè, mi metto anch'io, accetto anch'io un sacrificio, invece di dire sì, giusto, ma mai nel mio giardino, sì, famoso, no, questa battuta, mai nel mio giardino, ma come si fa? Ecco, sentirci un po' più proprietari di un giardino collettivo, perché è un bene comune, non c'è bisogno di essere marxisti. In America il bene comune è molto... Questa responsabilità sociale però è qualcosa che va richiamata, che va coltivata, che va in fondo... E questo è, fra l'altro, una questione importante, è ISMO lavora per le imprese, lavora per i sindacati, lavora per gli enti pubblici, lavora nei processi di inserimento dell'emigrazione, lavora per la scuola, lavora per la sanità. Cioè noi lavoriamo dove c'è il lavoro. In sostanza la nostra vera expertise è qualificare il lavoro e il lavoratore. E allora dopo questi primi 40 anni, buon futuro, la passione mi sembra che non manchi, non manca anche la volontà di sollecitare appunto una crescita anche attraverso. Poi, vi ringrazio molto e saluto tutti gli ascoltatori che hanno grazie avuto pazienza mille. Ad ascoltarci, grazie. Grazie mille a Vito Volpe, presidente fondatore di ISMO, che è stato con noi questo pomeriggio, grazie a Carmelo Lauricelli in regia, Luca Cremonesi in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.